446 081. Ah, ci sei, grazie. Non ce l'avvi, io me l'ho segnata nel calendario, ossia che sparisce e tu non me la prendi. No, ecco, capito. Perché non riuscivo a trovarti? Qualche volta anche da me sbaglio, sì, tocco. Infatti non lo so come sparisce. O c'è che sbaglio, da tu, non lo tocco mai. Mi metto qui la radio, delle canzoni e boom. Schiaccio l'altro pulsante e boom. Però furruggiarlo, non lo furruggeggio, sennò davvero mi ne dimenticheggio, ed è un casino. No, è furruggiarlo, non è furruggeggio manco io. E dica a vedere gli altri canali, se c'è gente, non mi stare no. È finito la veste, quel lavoro. Sì, aspetta un attimo, grazie, che... troppo una cosettina nel portatile, aspetta. Aspetta che entro in bagno. E per Luca. Illu. Finito la fetta quella. Illu. Cos'è? Era lì di malata. Sì, signor. Lì ci passa l'acqua, no? La frondaia. Vecchia, vista. Sì, la buttiamo a grondaia, non è una grondaia. Prima li facevano così, lasciavano quella culla e mettevano il castrano. Adesso non ne fanno più. No, non so. Entrava acqua noi a casa. Ah, a casa tua era. No, lavoro di Luca. Ah, ne ho fatto infatti un riparazione di quello così. È finito tutto la pezza. Ho solo quel pezzo lì. Un pezzo lì solo, l'altro a posto. Vabbè, meglio di Luca. Meglio mi curità che mi dà. Caro Grillo, mi domani appunto Eva, se tu YouTube è andato, che la metà di... E fa qua a me. Domani ci tutta la vita, anche Mari Mussi. Va bene, domani non me la fuggi niente. No, ma a Luca Pupe non andrà a pegliare il calamare. Come accadu, Alta? Allora, io sono la castagna di racconto, vedi? Come accadu? E mai fatti? Gio Maria è dormito. Ah, Lucia, oggi si è più bene. Ora vai, è andato. Non intendi, no, Gio Maria. Vabbè, non entrare in manco di dire cose così, te ne immagini? Già me ne sono avvisato. Aspetta che la ricrizione mi ha mandato un messaggio, sì. La televisione, grazie. Perché la televisione si connette a internet. E su YouTube è pieno di video di questo, raccontando barzellette. Guarda anche cosa. Aspetta che te lo dico, aspetta qua. Sentito là. Mi ho mandato uno che racconta barzellette. Non so, pure a te l'ho mandato. No. No. Avanti romanzo, va. Vai. mandato. Ah, dopo, su WhatsApp o su Messenger? Su WhatsApp. E beh, guardato te l'hai, Luca. Sì, ma lo sto guardando, aspetta. 100% costoso. Ehi, no, mi ha mandato il video di quell'altro che fa ridere un bel. Quel comico che ci chiama Mugiù. Che ce ne va a ridere, ma aspetta, te lo mando a vedere. Allora, aspetta. Mi te l'ho mandato, wow! E beh, Luca, vai dato giù! Devo guardare su YouTube! Eia! Aspetta, Luca, un altro messaggio, ci ha così! Il router devi avere, mi grazie, lo sai, sì! Ma devi avere un modem! Perché sennò non puoi collegarti! Lo so. La team ha fatturato li rompi. Il terzultimo 50 euro. Il penultimo 50 euro. Il terzo 53 euro. Ah va, oggi anche 53 euro. Cazzo, 29 euro ci sono stati a 50 e più euro, va. Attenandi. Cassiano! Ehi, aspetta! Cosa devi agitare? Ah, già sto parlando al telefono! No! Bella bei! Facendo sì, cosa stai facendo? Insieme a Luca sono, Luca Malicumio! Il manicomio! Luca del Monte! Chi sei? Ah? Dov'è che sei? A casa, perché? Ah, ma mi hai detto che eri in un gandro manicomio! No, era al telefono adesso! Stavo parlando col PMR con Luca Manicomio! E al cellulare sto chattando con Luca Flipper! Certo, bebè! Sia uno che l'altro, ma è un canale uno? No, su WhatsApp. Andate. Era De Zenni che mi deve mandare una foto di un cucino che gli hanno regalato, una cosa così. Detto, mandamela a vedere. Capito mi hai? Sì, capito ti ho, ero serrudente. Ah, tu tu mi hai appunto, ma non hai visto il telegiornale giornale? Non mi ha messo acqua, mi ha messo buono. Ma ci l'ha fatto vedere il televisore, trone e lampi e mari mussi. Ma che si è visto due erano in fesso, era. Sì. E Marita, sempre nuvola, cera e lampi e acqua brusca. Tanto non passa dagli sabbassi, passa dalla sabbassi. Vabbè, ci passa dalla sabbassi. Meglio che ci hanno fatto dalla vaga, a buia. Hai visto quanto è affollato questo canale? Boh! Non ci ho preso nulla, no. Hai visto questo canale quanto è affollato? Tutti con le mani affollate con il telefono, cosa vuoi fare? No, io manco, ma cazzo ne ho. Sono già un paio di che non lo docco io, che sono canari. Aspetta un attimo, che mi sta dicendo com'è questo cucino, cos'hai carabino, aspetta. Capito mi hai, Luca, da Torre. Che Mariano si è sentito? Chi l'ha inteso? Chi l'ha sentito? Mi pare che dai nasce dalle mani se senti in dillo. Da quando è invecchiato di più, oramai mi sa tanto lì. Non lo so. Non saccio nulla. Va a freddo, a cucciucciato, l'uretto, con la TV accesa. con la buffetta in capo, con un pompone. Di sicuro, sì. Se ne accostende? Va fredda a piedi. A te posso sentire una cosa al telefonino? Tore! Tore! Beh, Tore, chi era? Ah, boh, non lo so. Tutti morti sono. Marino non si è più sentito lo stesso, morto. Ogni tanto domenica raggio inteso alla 27, ora l'ha già più inteso, ma chi gioco da alla salita senza intendirlo. Chi si è parato 30 una gara a fiori, chi si è poco ma sicuro. E cosa ne gioco, boh, se non ne manco più a me il rabbiso mio. Ma io l'avevo sentito, mi sembra, anche da abbassata. 5-10 minuti e poi è sparito, boh. Boh, non lo so cosa, rientra nel dallo, boh, o non ne accendendo più. Giulio l'ha inteso in quella frequenza del telefonino, ieri mattina. Pavidenna a Roda, tutto Pavidà era con i continentali. Ieri sera che l'ho acceso a ascoltare e l'ho sentito era in quel canale con quelli di Continente. Manco male che ha detto che non entrava e non interessava assai. Ma se l'ho sentito già un paio di volte, infatti io non ci sono neanche entrato. Ha detto beh da dire no che c'era mi detto. L'ho sentito che stava parlando, si stava informando per quel microfono. Sì, grazie, la biglia in luce, microfono e canto è. E tu canto, boh. E cosa vuoi fare? Aspetta, lei ascolta questo messaggio di Luca. Capito mi hai? Sì, già ti hanno capito, sì. Tutta la gira a bozzi, sì, grazie. Tutta la gira a bozzi. Finza gravidanza mi sei fuggita. Poverina, fanni la entrare che chi ha detto a Pazzeva domani. Ciammala. Faccia Pazzeva, vanno innanzi al prato. Poverina, e non chi so tu in una greffetta di ghiacci. Venini. Si fa il bucco, piscia, fa le cose giù, da poi si gira, se la controlla, la tappa, lì da dove si innanda. Ah, questo è un gatto domestico. Ciao, do. Ma non potete fare nulla per Graziano, boh. Cosa li vuoi fare? Ciao, Claudio. Cosa li vuoi fare, ormai? Arrivi da Gesù Buntu. Cazza, quanto parlate, boh. Sì, sono più mudo, e l'altro non mi gioca con Sandy. Certo, mi si può dare la mano con cosa? Con Luca. Luca va a vedere De Marco di Grazia. Aspetta, sono al telefono. C'è il telefono, il computer, tutto acceso, vai. Graziano è Graziano. Stava proprio il braccio e l'attesa, stava avanti. La giornata delle le vigile. Luca! E Lu! Cosa va lì? La cosa? E Lu! Permetto, piovendo sta. Oh, da chi si abbassi no? Se prendeva dalla bassa in doia. Non è che sei facciato qualche tubo no e si abbassi. A proposito, la gente ti andò a bucare la roba. Prima se non ti faceva. E ce l'ho stesa, a dopo ce l'ho. Ia. Cazzo, clavo. Ia, guardando l'altra notte, boh. Avevo fatto in tempo allora noi, ia. Avevo guardato la linea lunga che è già asciutta, ci sentiamo dopo. Sono ti sbrighi, cazzo, sento l'umidità dalla bagna, muoviti. Tore, dormito sì. Ia, sei che dormito il gioco, una baranuglia. Gio Maria, non fa? Cosa vuoi che ti dica? Non me ne viene più gana! Se a nonna giù gana! Sì, anda a allora va, nel coso dello sport hanno fatto vedere, a TG Sport, hanno fatto vedere anche se tu duffendi, da una roccassa. Che canale? Ah, Rai 2, però a TG Sport, catta, hanno fatto vedere da, non so, che galluguira, duffendi. E va alto. Catta, ha un beasso. Mi la tu facci il mio feva, ci si induffani. Sì, e non che catta vendeva. E che è così bello. E dopo non sono in Italia, no? No, non è in Italia, no. Non so in quale nazione era, è un posto caldo. Lì c'è caldo. Oh, yeah. Vabbè, dove va, purtroppo. Lui li chiuse un passato, vabbè, si tocca in ferro. Te lo vai per in ferro. Nessuno te lo vai un paio di mesi. Ma in ferro te lo fai roba di 6-7 mesi. Non so. Vabbè, non te lo fai un paio di mesi, li chiudi più, Ta bu bu nyagaco. Rega tutto. C'era baranoia, bu. Se gacco mi sei dormito, Dormito sì! Tu sei dormito, sei cacchetti! E cosa ne so? Vabbè. Sì, guardami, il secondo canale, le previsioni. Abbiamo la nuvola, l'acqua e il sole. E il maestrale. Che cazzo! Si può dire che è tutto, Invece la base di Olbia avere un sole e la nuvola. Ora siamo bussi mari. Va a posto, va a posto, va domani. Una carriola bisogna uscire, diglielo lui. Sabato, domenica, la stessa cosa, tutta la base di Olbia, Olbia, no. Boh, hai visto la Sardegna e la nuvola al centro, trono e lampi. Tu hai visto quello che hai visto tu. Ma chi so che tenda mai è tutta una cosa diversa, tutta la base di Olbia e di cose, Santa Teresa, tutta questa zona. E allora torna qua domani tu. La costa orientale, da. Tu non devi rientrare, grazie. Ho detto tutta la costa orientale, dal nord al sud. La costa orientale, Santa Teresa, Palau, e via scendendo, Olbia, eccetera, eccetera. Sabato e domenica, domani invece la costa ovest della Sardegna, vicino a Casadduglia. No, a me sta di chiesto che al nord, come ti dici al nord, a ovest, chi c'è a ovest? A ovest non c'è nessuno. Tutti siamo a nord, e poi ci sono i punti dove si è spostato. Io sono da una parte, sono a nord-est, dall'altra parte sono a nord-ovest. Compresa la grazia, la conosce la bussola? Ce l'ho anche la bussola, no una, mi pare ne ha due o tre, a voglia. Comunque no, che ha detto quasi a Eva, ma bisogna vedere a chi. A bisogno di embriaghi, di meteorologi, che dice in un tempo, tiri un canale e ti dice così, tiri l'altro canale e ti dice di mezzo, vai a pigliare compresa. L'unico che ha azzeccato lo metti ora per l'acca, è Muscio. Aspetta, domani va se tutto vicino a Casadduglia arriva. Aspetta che Luca mi sta facendo una scuola guida. Di armi! Beh, ma c'è un bosco a 8! No, ti stai in asso, stai! Oh, hai andato a caedo, bisogna toccare tutti i canti d'altri, che vi sono a rubrima piano, secondo e terzo piano! Me lo faccio a caccio! Non lo so, se va arrivi tutta la va in chivi! Dopo il caccio, un biglietto! Aspetta che andiamo! A Luca mi toccava. A poi da chi no, che quando parava in garage, tu mi stai attento a vedere, prima te ne paravano, che ci mattoni, in Grecia, in capo, ma qua sono giusto a bucare i bombieri, si piccano ed ammazzano. Ma hai detto che mi stai ammazzando la regina, pensa di chi sta domani, grazie a Pasci. In garage, è già in garage. Ma ci vuoi sul tappo, le remme, il motore è tratto, non c'è il spugliatore, si pongo questo disco a forma di ventola. Per carità, aiutatelo. Grazie, già ti presto la barca io. Ma la gioia è gommone, la gomma è sempre l'ompia, passa un pesce spada e ti buca. C'entra un muglio, un gommone cancellato i mari. Anche d'altro, andiamo e andiamo. Certo che andiamo e andiamo. Da ti buca, non c'è un inizio in Africa in 3 secondi, con la pressione che va, altro il motore. Che sono lo comandante della caserma di Sosso. Ah, così è. E allora, ha detto il governo e il comandante ci aveva comprato un gommone, e il governo ha detto che devi cancellare. E comunque, grazie a Sappi, ma al 200%, che il gommone in acqua, a chiglia rigida, è il mezzo più sicuro, non fai bocca che tenghia. Già lo so, mica se l'ho avuto, da Giovincello. La femmina ci ho fatto in dinà, ho avuto anche una barca in resina, con lo scafo piatto, tu mi hai già, quando si alzava in vera onda, chi parava in barietta via le cuta a pittorra, un colpo di bara, la ci ho fatta subito in dinà. Se tu guarda, quando escono le motovedette, escono quei gommoni giganti, arancioni, quelli sono gommoni d'altura in chiglia vetroregia, rigida. Adesso dopo c'è un gommone che hanno fatto vedere dei profughi, eh? Cazzo si danno a 20 metri che c'è un gommone, 60 passioni vera lì dentro. Sì, detto che non sono inaffondabili. Altro che sono inaffondabili, l'hai visto tutto a pezzi. Che sono troppi, 60 persone c'erano sopra, capito il peso. Poi mi pare che ci sono tutti muro, hanno impigliato qualche cosa di scoglio quando sono arrivati lì alla prima tappa, in chi erano i cubelli, capito, che erano già in zona radar e li hanno scoperti. Ma altrimenti un gommone del genere, ma veniva a 20 metri, in sciugantera, mano, Sant'Antonio mio, due motori ma grossi. Ma lo sai, in gommone a Portoferro, quando pescavo, si è girato il mare, in cosa ne posso dire, manco 3 minuti va a pulso. Dugna cavadanda, ha fatto un gommone saccuta alla parete di la rocca. Allora come ti sei disoccupato da terra, tutto pieno di tagli, a muglio, in natale rocca, il gommone è esploso. Il gommone. Ma alla Brittella, grazie. A Portoferro, stavamo uscendo per andare a pescare, era bello il mare. 3 minuti si incassa il mare, l'Union da piccato, sta piccato da cuccio alla parete della rocca. Tutti sciumpiati, va giù che cicatrice ancora. A chi si sa cuccio, innata alla parete, da benissimo paradì, innata alla rocca e il mare. Un casino qua, per carità. Grazie, io vi devo lasciare, devo andare a prendere la signora. Ci sentiamo dopo. A parete, ti lì, eravamo dalla spiaggetta, siamo usciti, no? E se erano i camminelli, arrivi da che sonda, sei dato cucci in 3 secondi. E la gente sopra, tutti i gatti zecchirena che stanno vicino purenni. Grazie! Una giuro che non è chi deve la torre di Portoferro. Proprio in Chivi ti sei andato a finire, tu a prendere i bisendimi. E poi mangiando romani in Chivi. Ti dico vicino alla brittella, forse scendo io. Vicino alla brittella. Allora, visto, avevo ragione. Grazie, no. Comunque ce l'abbiamo qui il caffè, la busta. Cazzo. Oh, sabe è capitato la sua voce di noi, se io non vi veni giù, vai a matta, darà giù, da va, non faccio di vini, puro arugugio, ma non c'è niente. Grazie. Ehi. Io mi sto allontanando, io devo andare a prendere la signora, ci sentiamo dopo. Ehi, ok. Tore, passa a prendere la Graziano anche, io ti devo portare in giro un po'. La grandaro, bambino, ha ragione, che se no c'ha paura con me. Luca, oggi tu amico tu mi ha mangiato un salmetto, ma cosa l'hai fatto mangiare? Grazie, che te ne sono una tapparetta. Una paletta. Una tapparetta. Una tapparetta, una tapparella. Tapparetta, quelle, come si chiama Luca? Le, quelle che si abbassano. E cosa è Carlos? Cra. Come si chiama? Sì, è caso la sta vendendo, l'ha smontata da dove lavorava prima, lì c'è il gamazzeno, va là, l'ufficio. Ah, una serranda. Tappretta. Una basculante. Tappretta, non serranda, una tappretta. No, e cosa me ne fosse, no. C'è la bevanza, una basculante in campagna, anni, non so come arredisci dall'anno nessuno. O è magari quando ti indiani lo preso, poi un attimo mi sono girato le balle, sta sbuttato tutto e lo fa rovescio. No, cosa me ne faccio? Ma io devo arrivare con me, andate a prendere in media della serrata, non lo. No, cosa me ne posso, non mi sta rizza. Anzi, mi sto vendendo un po' di roba. Sto vendendo molto picco, una tronchesa della Felizzati a legna, con disco a legna. E poi c'ho altre cose da vendere. Ma... molto picco? Non è molto picco, Giovanni. Un fosso su terreno vicino. Della Ilti, chi ce l'aveva pagata a ratti alla Ilti, in via Rockefeller, un bel anno fa, ma ha travagliato ed è un gioiello. Ma la dolce quando la regavo in cantina a travagliare, ci sono lì a pappo sacco da chi tutti se lo buntavano. Eccolo, la Ilti è bello. Quello della Hilti è bello, no, il mio non è della Hilti, è un'altra marca, il suo lavoro lo fa lo stesso, però quelli della Hilti sono molto più buoni. Comunque grazie a c'è la voce a papparetta, te la regalo, io non la gioco vendente, la gioco regalente. È meglio della Gerlanda, più robusta, puoi passare a fare la raccolta, non lui. E noi vuoi i cosi d'acciaio? Allora. Mi sono convincente, se ti interessa. Claudio, una cristalliera di noce, Massello, nuova, mi ce l'ha vista anche Luca, vero Luca? Cos'è noce e Marcello? No, è in noce, il Massello. Hai compreso noce e Marcello? E te l'hai vista già? Se mai compreso un noce Marcello, non sapevo cosa voleva dire. Ah, sì che l'ho vista, è bella micra, nuova nuova. Non è facile. Veramente l'ho preso tutto nuovo. E adesso che abiti in campagna non ce l'hai una tavernetta, quella va bene in cucina, in taverna, nella taverna. Se c'è la taverna. Oh, scusate, mi assento, arrivo 10 minuti, 4 ore, al massimo 20, dai. Non è che davvero è una città sottoterra. No, se non me l'avrei presa, non mi serve, oh grazia. Ebbene, non la potevi portare a Portobello. Mi vedo stamani, vero? A farmi un giro. Così giusto ammazzare il tempo, ma pure in chiave è tutto mio immondezza. Ma grazie, io non scusa, sto arrivando subito. Eia, no, un cazzo nel butto a Portobello. Aver parato un po' che l'onfio, ti la buono un pregio, Dopo che tu ci la vendi, quando andai a incassare di una che tocca latte, ti dici, però dovuto abbassare il prezzo, se no non riusci a venderla. E ti butti, si piglia la pastizzoia e più la butti giù la che sta quasi, hai compreso? No, non gliene porto più. Lo so, grazie. C'hanno la percentuale, capito? No, io quando ho smantellato la casa dei miei soci ho aggiornato tutti i mobili. L'ho detto, fate voi, non mi interessa, basta che ve li prendete, ce ne sono anche tanti. Anche i mobili antichi, belli, ho fatto tutto a loro. Adesso non mi ricordo quant'è che mi avevano recuperato, ma quando vendevano mi chiamavano e mi davano i soldi. Ma in tutto mi pare un 300-400 euro avevo recuperato, niente in particolare, ma era proprio per disfarmene, per farli fuori, infatti non ho voluto sapere niente. Fate voi, arrangiatevi voi, vendete voi, chiamatemi quando avete venduto, c'era il tavolo, le sedie, credenze, comodini, c'era una camera da letto nuova, capito? Aggiornato tutto, non ho tenuto niente della roba dei miei soci, l'ho svuotata completamente la casa, anzi, mi piace Luca, un giorno lì a Caracas con la buona maestore, vedo uno che ha i mobili per la campagna, ha detto, se prendi un motocarro adesso, però adesso, andiamo e ti svuoti una cameretta intera, fissa che lo frigorifero l'ha aggiornato, tutto. È venuto, ma di tutte cose mi dice, ma non mi niente, butta dentro il tutto, il mio dammi la gamba da subito immediatamente, che la prossima settimana mi arrivano i mobili nuovi, e si sta portando tutto. No, ma prima già gliene portavo a Portobello, già gliene porto anche adesso, però quel mobile non glielo porto perché lui fa di l'occhio. Fai che lui non mi dice a me, te la metto 600 euro. Si la tiene un po' che gli dice, vabbè, quando lei ce l'ha qui dentro, e tu cosa dice? Si la vendi, da poi gli ti chiama, manda per gli altri di là, e ti dice, e fate un cacchio, ti dice, allora devo abbassare il prezzo perché se no non riusciamo a venderlo. E dunque ci tieni già la percentuale sua, su quello che ti dice che l'ha venduta a lui, cioè per dire se è 600 e tu gli dici l'ha venduta a 400. E ti curi la butti giù la burighina, hai capito quel giochetto che sta facendo adesso? Ma quello non sai chi lo fa quel gioco lì? No, quelli di Portobello sono seri, grazie, io ho avuto a che fare un paio di volte e ti dico che sono seri, perché se io ti do una cosa ed è valutata, tu me la valuti 100, quando la vende mi dà 100, è già successo qualche volta, capito? Quello che fa quel lavoro lì è chi sono che le porta Torres. E chi si sono andato a pigliare meridina della roba che ha venduto, ma poi c'è due citti in mano e l'ha già fatto, fammi una cosa, l'altra cosa che mi sta già arrivato, vai di là e tieni di giusto, cazzo se sapevo che mi fregavi così non ti avrei, te l'avrei regalata qua, non te l'avrei chiesto neanche a darmi i soldi, a farmi il foglio o come primo cliente e tutto, che cazzo? Boh, non ho capito, si ha venduto i mobili, nuovi, mi angoliere che gli avevo dato. E mi ha portato in mano due cinti, era fatto di vita a faccia. Quello sta facendo il gioco un po' così. Però quelli di Portobello sono i primi. Sono i primi, la gente seria, io ti ripeto, ho avuto a che fare. Mi hanno dato, perché quando gli ho dato i mobili ai miei soci, ma qui ci sono giunti con un camion, mi hanno inviato un camion, ma non un furgoncino, un camion, un 115-17 hanno riempito me, hai capito? Vera di tutto, tavolo, c'era tutto il salone completo, tavole con le sedie, gli armadi, le basi, tutto siamo portato via, tutto. Ho svuotato la casa, è arrivata questa cameretta in più che c'era la mia suocera, con dei mobili a tipo, come si dice, dispensa, è venuto me, amici di Luca che c'avevano la campagna e siamo portati via, però quelli a me mi hanno fatto vedere tutto, quando hanno venduto, hanno fatto guardare mille, il tavolo con le sedie, abbiamo venduto questo, abbiamo venduto così, questo abbiamo venduto così e mi hanno dato i soldi, capito? No, no, è gente seria, a me ho avuto a che fare anche da poco, non ce n'è problema. Avevo comprato della roba che mi serviva, delle lampade, avevo comprato un forno in cazzo per sempre per campagna, avevo comprato un po' di roba, capito? Roba nuova, roba ritirata da aziende che hanno chiuso, capito? E mi hanno venuta a metà prezzo, roba nuova. Ho trovato il forno della Smeg, costava 275 euro, l'ho pagato 120 euro. Nuovo, dentro la scatola, capito? Ancora imballato. No, no, per me quella gente seria. Che fa l'intruglia che serve ai Porto Torres. Quello è un miserabile, per carità, gli mani a messa. No, ma siccome prima non era così, a me mi ha fatto il tubetto così, infatti non gliene do a lui. A questo è un frate cazzo, però non gliene do. Oh, è nuova roba. Ma lo prezzo di maldito e non gliela do, a chi tanto da bere mi fuggono, ma te, cioè ne le ho portato roba, ma non sai la roba che ho portato io, e dopo da mesi che la ricavo, mobili, e accessori di casa, di tutto, di più di tutto, di tutto. E adesso, ma quando la buco la so con regalini, ha detto, ma cosa cazzo, ha detto, andai, lì. E la sto regalando quando la busco e me la danno, la regalo. E l'altro giorno c'avevo un bustone di roba, tutta roba di marca, tutta adatta. Beh, sì, cosa ne fai? È meglio darla, no? È meglio darla, grazie. No, no, ma ti ripeto, io ho preso roba con il mio vicino di casa, per campagna, e ti dico che ci ha trattato bene, la verità. Ci ha trattato molto bene. Ho preso anche una lampada per interno, bella, molto bella, capito? Ci ha trattato bene. No, a me non mi ha mai preso in giro, capito? Mentre invece mi hanno parlato male di quello che era il produttore, ci dicevo che era al monte prima, no, isso. Quello è un ex CB, adesso non mi ricordo il nome in attivo. Quello è furbo, ma vi ha detto, guarda che io qua nel locale devo pagarmi l'affitto, cazzo ti rubai che vuole di là che hai butti da me, cazzo facevi prima dirmi, lasciamela qui o se lo portate la via, fai come ti dispiace, ma noi da voi, venghi chi mi cazzo mi dai due cittino, scusa, il prezzo è quello, poi devi considerare quanto tempo è da qui, ma che cazzo se dice? Dovete fare una cosa, l'altra roba mi è rimasta, mi arriva il ligadrive, c'erano sedie, gli ho portato nuove. Quelle te le vende e ti tieni tutto, a me non mi vede, mi fa ammazza tu. No, quello lo vedi e mi dai di no. E ci ho messo il boccio ligadrive, a costo di mare legna, ma non ti dà nulla. E già lo so che non ti preoccupare. Quando abitavo via Pascoli, io abitavo attaccato a me sopra Forbice, avevo un'anima del signor Mario, sopra abitava lui, proprio sopra al negozio di Forbice abitava, io abitavo a fianco a lui, capito? Quindi già lo conosco, quello lavorava in via Lomberto, in Chivia, alle commesse della Banca Italia, con la Electrolux lavorava. Ehi, ma è loco, infatti ci andi, è sempre pieno che ci ruga, se no non è cara la roba che vendi, a mandare i pregi, chi la buoni, quando sta roba che va a vendere, cazzo, e non andami la bella in negozio. Ehi, a me quando aperto mi ha contattato che voleva fare uno scaffale di roba vintage, no, proprio a chi ci bieto, di radio per attirare l'attenzione, capito? Ho detto, guarda, a me tutto mi puoi chiedere, ti buscio una cosa, ti servono soldi, voi soldi, ma non mi domanda le radio, anche io le radio qua non te le espongo, l'ho detto, perché sono radio vintage, ma sono radio che ci tengo parecchio, molto, preferisco tenermele a casa, e così ha giovato, non era giovato, ma le voleva, capito, per esposizione. Aspetta, sono al telefono, lui che ha squillato. Ehi, fai. Ok, sono arrivato. Ehi, io ora mi preparo, riuscire a fare un paio di commissioni, così in capo Lugani, una mezz'oretta, e poi ceniamo. Ciao ragazzi, stiamo bene, dai, saluto a tutti, già ci sentiamo alle prossime, gappa. Ehi, ciao Claudio, buon proseguimento di serata, stammi bene, dai un bacio a Filippo da parte mia, ciao. Ciao, ciao, anche se non mi senti, dai. Ehi, sono andato a terra, ci cucciò tutti. Ciao Claudio. Cosa? Ciao Tino, un abbraccio grande, e c'è un po' una scala qua, ho già. Ah, non ti intendo, Ciao, grazie, no, vabbè, sono con il gommino, Vabbè, ma io sono di fronte, quindi diciamo che non sei lontano, Va bene, io sono arrivato a casa, mi ha fatto un po' di spesa e quindi ho scaricato ora. Adesso mi accingo ad andare a farmi una bella doccia. Sì, gappa gappa. La settimana scorsa è passato il principale tuo a prendermi. Allora prendi un caffè. Non ho capito. No, io sono, adesso sono un po' senza, perché ho altre cose in giro, capito, quindi stiamo ribaltando una parte all'altra. Ma già va bene così. Sì, io già di una frutta, importante, da una parte all'altra, importante tirare la barracca. No, è venuto a prendermi con quella nera, con la nuova che ha preso, capito? Va bene, ti dai, anch'io sto uscendo, siamo andati a fare un paio di commissioni al supermercato, poi me ne rientro, così mi porto anche il cane, esco a piedi. Ciao, ci sentiamo, ti saluti a casa, ciao, grazie, alle prossime. Ciao, ciao, è ok, alla prossima. Va bene, grazie, altrettanto, ciao, ciao, buona spesa. Ciao, ti ciao. E beh, pronto l'impasto? Ma non è vero? Ciao Mari, Domito c'è, che facendo c'è? C'ho fame, non me la voglio andare a mangiare, passa al forno c'ho stanotte. Passa al forno? E allora? Mi raccomando, Bel cartoccio fatele mettere lù. A te a ti piace, per cui fatti bel pieno. E ci sono batterie, dove? No, non c'è. Esatto, cosa ha fatto? Guardate, la roba dei piccetti. Dormito io, male vero. No, indaffarato, dai. Indaffarato. Coso? Luca, manicomio. Mi chiedo Maria, grazie. Ciao, buonasera, ben sentito, e lo fai. Beh, grazie, ragazzino. Che finta è unito, sarò unito. Ciao, meni di tutta la sera, io e Luca. Ero dormito, sul ragazzo. Ma l'ha giurito io, mio, oramai l'anzianità è quasi chi sei altro. Davvero, se le grigie a mettere te un travaglio, ragazzinami, me lo bevi. Il movimento gli altri fatti me. Pa, li dai che fai, che ci l'ho, accumuli grasso, da voi non vi vai a camminare, vero Luca? Allora? E tu il quadro, vabbè. È andata a prendere l'anima sua. E pure la doia, grazie, sta giù buttato. Tornata, Sei passato veloce, cosa hai fatto a flecci? Davai! Cosa hai fatto a flecci oggi? Hai fatto in fretta! Che curai? La macchina è veloce! Bravo, bravo! Mica c'è Giorni Maria! Ma già biro! Ciao Mari, inteso hai! Caruto sei! Ma però! Ha già ragione, io vivo un bacco, lui no che! E Claudio in dietro, a Radua. È andato a portare il cagnolino e poi doveva fare delle compere al supermercato. Gio Maria, cosa sei combinando di bello che stavi lavorando? Stavo girando la casa sotto sopra. hai fatto bene, ti fai vedere il movimento, non ti preoccupare. Ma la visione, mi ha fatto un bacino, rimane a va. Mi ha toccato il braccio, mi pare che è un fiato. Boh. E dai, rimango in corrisci che sto facendo cose, dai. Ci sentiamo domani. Ti ho visto ascoltando, dai. Complimenti, saluto a tutte e tre, saluto. Riprendi tu, buonasera. Buonasera Gianmarì. Stammi bene. A domani. Ok, riprendi, grazie. Ok, buon proseguimento di serata. Non mangiare molto e riposati. Ciao, salutoni in casa e buonasera quando la fai. Vai, manicomio. Ciao Gianmarì, ciao. Buonasera, alla prossima. Buonanotte quando la fai, ciao. Uia, Graziano, Graziano. Ma non l'hai visto in via Succigi? Chi su che la zecca di apre un appartamento a furà? Uno del condomino l'ha pizzicato, l'ha bloccato. Pure un poliziotto che abitava lì. E a chi tu ne l'ha cuttu? Un mosso a Recci ne l'ha fatto il strattato, mezza Recci ne l'ha attaccato. E già l'hanno avuto, ma non l'hanno arrestato. Ah, trovato l'hanno? Eia, l'ho letto su internet. Capita, chi sa vi ha proprio fame? A mangiarci la legge di chi? Anche se lo va, quando era uscito ne l'avevi assassato le balle, ne l'avevi assassato a chi su? È stato, hai visto, chi nonostante erano in due. Un condonimo e anche quell'altro che era del palazzo, però lui era un poliziotto. E ridicita a fuggirizia tutti e due. A Ghido era un poliziotto l'ha accusato un gabbaro muro. E a Ghido ne ha trattato mezz'ora e ce l'è fuggito. A te l'immagini. E l'aveva gettato quando era uscito, ne aveva assassato le balle, ne aveva assassato. E ha detto, quando era uscito, aveva fatto vedere la Recce cosa l'ha fatto. A chi su? Aveva fatto una pedda giusta, pensate che era abbiazzuto. Ma io non avevo aggettato, c'era stato che su Burizzotto ero parato a bancare, non c'era il butto, l'aveva aiutato i secondini, l'aveva fatto gribare, anzi, era tra te l'aveva gribato in carica. Che roba la macchina, boh. Grazie, ma non li hanno trovati, no? Sì, uno è riuscito a fuggire e la polizia l'ha trovato, se l'ho letto su internet, che l'hanno arrestato. No, ladro in fuga, allora attacca l'orecchio a un morsi, a un uomo, poi ferisce un militare, ladro in fuga, video. Non c'è la schiebo. No, palla, al televisore l'ho sentito, a videolina. L'ha detto che l'hanno trovato, l'hanno investigato lì, la polizia ha fatto tutto il circondario di quella zona e l'hanno incuccato. Sicuramente ma l'avranno immerciato e l'avranno bloccato. Sì, grazie. Quando uno è delinquente, non è venuto da fare. Non hai visto che sono incontinenti? Chiedono mia 30 la fabbrica. E anche se l'ha fatto fuori, anche se moldavo. Un ladro in manco aveva. Si cadò anche, solo il ridici da fuggire e lo so sicenne all'altro. Ma adesso quanti volti in un anno l'hanno aperto il locale, 39 o 29 volte mi sembra che ha detto. E oramai quello lì stava vivendo lì già da 2 anni, ma andava a dormire ai vivi, ne manca a casa sua e andava via. A chi si rasitava che andasse a ridorre a pura, non hai compreso? Hai passato lì in un locale e entra a pura. Un piccone l'hanno grebato, lo prende e l'hanno in 30, ha fatto bene che la buchi, così imparano. Hai visto? Troppo? Ha fatto bene, ha fatto. Guardate che sia. Poi che si come, si l'hanno ritornato a 20. Senta, cazzo. Ragazzi dei Moldavi, già sono i vari muri italiani che sono un bel delinquente, ma i Moldavi, va poi la faccia e tutto quanto, ma come ne uno in manco di chi si. E così impara, infatti non le va di nulla a chi per legittima difesa non ti fanno niente adesso, la titolarità di Salvini per legittima difesa ha fatto bene, anzi l'ha voluto troppo bene, a Chiesi non l'abbia buttinata sul macchinario di rigomme e l'abbia allagato. Luca, dove mi ha messo questo braccio? Boh, mi pare mi sia un fiato, lui mi ha fatto un vaccino questa macca. Cosa ti ha fatto? Tutto massoriato dirà? No, me l'ha fatto proprio nel braccio destro, proprio su, proprio sopra mi, su del muscolo, affacciata del braccio, il lomma, rodatino. E allora me l'ha giù giocato, basta dravano e me l'ha giù intiso. Mi ha fatto male di un fiato, poi me lo controllo. Grazie, alle prime armi non vi assi, non riesco da ciappate per avvena. Ma c'era una vecchia tutta rimbambita, mi pare a burumezzo macca. Oh, ma cosa sei andato a fare? Oh, non lo cosa, lo vaccino. Ehi, Alex manicomio, vai lì e te lo fanno, vai con la tessera sanitaria e ti fanno il vaccino. Chiami la distruttore mio, andai me lo vaci a esso, ma dato che ero lì sto facendo altre cose, me l'ho fatto lì. No, non andava, no, non vado io anche per farmi massoriare il braccio. No, c'era uno che era giovane, infermiere, e gli sta curando un caffè a biccia, sarà che andasse in infezione. E mi ha detto, le deve fare la puntura, e già lo so, già ci sono abituato a farmi le punture. Ne faccio quattro di insulina, la di, dunque, a voi l'hai pigliati. Dunque, allora c'è così. Cazzo, ma era lungo 10 centimetri, chissà, mi si era entrato tutto nei vassi, pensa all'osso. Andiamo, beh, andiamo. A fammi buccare un braccio così non vado io. Quando arrivi dalla dottoressa mi dai mesi di dicembre, andate da Eda, me lo posso fare da Eda. Ma se vai adesso ce l'avrà adesso anche. Perché poi trovi più gente dal medico per farsi il vaccino, capi? Già chi vive lì una ventina di bastone. Pasiani, quattro femmine e quattro macchi, quattro femmine e quattro macchi. Sì, no, ma sono salito stamattina, mi ha detto, dice che glieli portano a metà mese. No, cavalieri ce l'ha, l'ha detto a mia moglie che è andata a farmi le impegnative per ritirare le medicine. E gli ha detto di dirmi andare che mi faceva il vaccino, ma dato che ero lì mi l'ha già fatto io, nel frattempo che stavo facendo altre cose, capi? Sì, infatti. Siccome lei non c'è, c'è la sostituta, e va lei a ritirarseli, e quindi se li porta, li porterà appena entra. E ce l'era mi gente, cazzo, a 4 entravi, lì c'era, ne entrava altre 4, e lei era sempre arrivati niente, e a finire niente. E invece a fianco c'era il cartello scritto, quelli dei paesi, Sorso, Senuri, Nulvi, Castelsardo, Veracritti, chi se ne ripete andati dall'altra parte. E vedi che hanno fatto così, per i paesi a una sabbassi, per Sassari a una sabbassi. Ma non va, io troppo niente, non ci salgo neanche io lì. Quando c'è la mia dottoressa, quando rientra ando da Eda. Mia sorella è andata avanti ieri e mi ha detto sono entrata e uscita, non vedo nessuno, due o tre passoni via. È andata alle 9:15, un orario così, e so che è andato più tardi, più di 10 mesi. Sì, andava, no, non me ne faccio lì, non faccio. Te la fa dal medico tuo, cosa è come ha detto, ma Io l'ho fatto da Toveroni, capi. Se no già era andato dai Correbambi. Quindi da me se lo faccio io sto la puntura. Mira, signor Bacchi, zio mi. Buonasera, signor Bacchi. Buonasera, Tole, buonasera, Graziano. La puntura te la faccio io. C'ho quella siringa perché lo faccio ai cani e ricomincio ad averme. Ciao, Bacchi. Vai, con sei che fai poco da affidare, poco affidamento, c'è chi piglia una carotta, tu. La siringa. Non fa affidamento, e qual è l'affidamento? A giudizio di per poco di fidarsi, così, qui ti piglia l'acqua, piglia una carota, cosa risolvo? Una zucchetta, vero Dore? E allora? Che furro mi bubù? Chironghi, grazie. E allora? Non si sa mai, ho un citriolo e parli da voi, bene rubucco. No, un peperoncino rosso, quello frigitello, che è lungo 20 centimetri, questo andava bene. E da poi le morroni cominciano a lacrimare, di più giù. Ah boh, non ne so con nulla io no. Beh, vai a far vedere di questo appassamento, grazie. Mi ascolta cosa dici. La di Trianzura. L'hanno avuto nelle cose, nella zona vecchia di Sassari. L'hanno bloccato? L'hanno bloccato, l'hanno, nella zona vecchia di Sassari. E la mia, le volte ancora viene di sangue. Se l'ho sentito io a Vigliolina, l'aveva detto. Questa roba la macchia, aiuto. È vicino a Mevigliura, è un palazzo vicino a Mevigliura. In via Ciucci, di lì. È passato a fianco proprio, l'ho visto lì questo tipo correndo, dice che era con un giubbotto sotto il braccio e si è stato correndo via Campidano. Ehi, hai compreso, andando a aprire l'appassamento, a chi non vede i rocchi, dai rocchi non li ci più fanno, entra e non li ci, e annici, tre sui sacchetti sì. Basta il pulizio da un dall'altro, questo è passare. Da davanti da un po' di osso. E beh, coglione, se ne poteva fuggire, buono. Se è fuggito, ma era auto, mi sa di essere messo, se ne è andato. Sì, che invece di girarsi a parrarsi. Fuggia e buono. Io penso che il tagliare le scimmie e quando entra un baccarane puro, Fasane, niente, lo Fasane, i ricordi, i carabinieri. Anche ha sciupiato il suo burizzotto, chi le era bloccato in paragone di cose, lo consumino, ma senti, chi c'era burizzotto? Era costruito a Barbudo, chi sarebbe colpa l'accusto? È caduto nel cane puro, si è fatto nel cane, si è fatto un colpo l'accusto, un pugno l'accusto. E io penso che sono prima di tornare a cogliere un pugno per pensare a mille morti. Chi stava e prendendo i colpi da quando ha fatto un piede in Ghidano, ha compreso. Chi sta prendendo i colpi e prende i colpi ma un poco di tempo. E poi da che paraggiosso, altro che piscina, oia il colpo di manganello. Ma che? Così impara, peggio mai. Tu sai, hai visto che ti hanno copiato, fuggi di se buono, cosa cazzo di buoni? Volevo entrare, volevo sapere il fascio di seguire, ne ho fatto qualche cacciavite, sembra la sua ultima metà, niente, apprezzati. Avanti, torre qui. E così, a manco va, prendevo nel manco, e dice, c'era stato quello pulizzo, però aveva gettato quando era nel recito, ne aveva sassato tutto canto, ne aveva sassato. Capo, a recito tutto canto. Sì, io stavo avanti, prendendo i golpi, avanti, cominciano a pistarlo, a che barriera deve mangiare nella fianca per accudire. Avanti, tu l'ha rovinato la recito, chissà. La trattatura che la finirà mangiato in mezzo a recci, mi ha dolore. Ah, ma chi se l'ha arruinato? Ma se poi l'ha arruinato, poi lo dolore. Dice che si è parlato con la recci a Penzoloni. Alla sicurezza non si cade la recica. Magari chi gli giulli da mantinenni, no? Si cade di bloccarlo. E vedi, se è autobloccato, se è girato, magari era capo a capo, a fianco. E si è attaccata alla recina, non hai compreso. Già mi bulli, è zitta, non hai compreso. Ci vuole il pinto da riscare, appunto la fatta in bene, ha fatto rotolare le scale, e poi c'è un capo a Romagnolo. Così avevo visto che mi ha tornato. Vedi se ne ha bloccato la mia bocca, rivedi i razzi, metti il tiro di nuovo. Aveva cominciato a così a colpi di roccia, tutti e due i razzi, a rimani, di farli, di non funzionare più. E la poi anche, così non cammina più. E sta si fa in mezzo ai comuni rubomini. Non è sassareso però, no, è di Zempio, Viene da Zempio, senza fissa dimora. Sarà che delinquente che si danno in cultura ed è giunta a Sassari. Ma tagliati la gatta di Lurugu a cuccarsi, non è compreso, è andata a curare per mangiare ogni dia la gatta. Sono fondamentali con i delinquenti, bisogna che lo fanno pure con i giugni, invece no. Entrano da Ianna e ti esci dall'altra. Tu la dici, tu vuoi sai che dà e dopo gli dici. Ehi, avanti sto. Ciao, re! Ehi, cosa vuoi fare? E cosa vuoi fare? Allora, a te ti mandiamo a cercare l'acqua. Ecchi, allontano così. Catta, ti sento male adesso. Sono sempre allo stesso posto, sono sempre... forse mi senti male perché la batteria se ne sta andando. Ah, in due erano perché? E giù sono, grazie a... Ehi, ma erano in due quelli lì, o solo lì? Solo che non si sa se è in due o se è da solo. Si vede con Baro, io so. Ma là sono pigliato, non essere in piglia, magari ci farà qualche mese di galera. Chi tu si dice la piglia buona, sì. Si piglia a colpa di manganello al razzo. Capito ai bacchi? Via, quello prende il colpo di manganello stanotte. Ma l'altro non ne prende condanna, non penso che sia un palo. Erano tutti e due, ma li sono messi da con andare a rubare, però... quello là ha agito e ha fatto danno, quello ha fatto danno veramente, invece l'altro è scappato ma non ne ha fatto danni. Io lo stavo cercando, anche a lui, la parte sua ce l'avrà. Se no se la canta quello che è dentro. Anche. Però io dico, vai a rubare, ma che se te l'attacchi qui, ma è tanto di sgamato, boh, fate arrestare, sei fregato. Così peggiore la situazione. Se lo volare a gamba e via. Ma se entrava dentro, all'appartamento c'era quel giovane, che poi mi ha strappato l'orecchio. E se entrava dentro se lo mangiava. Vuol dire che sapeva qualcosa di quello, ma c'ha soldi, capito? Infatti, deve essere qualcuno che sapeva soldi, ma lo sapeva cosa c'era dentro casa. No, adesso fa un carabinieri e il figlio lo fuggi, no, a reazione. Va, figlio dei suoi pesci. Oltraggio, tentato omicidio, ma no, aggressione, boh. Vabbè, forse anche tentato omicidio, perché la figlia gli ha assaggiato l'orecchio, ha preso un po' di sangue, quello là, poteva morire di sanguato. No, ma tuo papà la televisione ha detto tentato omicidio. La condanna viene fatta per tentato omicidio. Magari, ripeto, entrano da una porta e sono dall'altra. Avanti, grazie. Ma è inoffenso, cazzo. Comunque per un paiente in giro che entra a calabria appartamenti, anche qui nel mio portone, nel palazzo qua, una gli aveva piazzato il portoncino blindato, l'altra dice, le rabbedelle, vi erano tutti intaccati, erano le zecchine da brevido, la di chi non vera, erano la gente giunta, la via vicchiero, ma non ho sentito niente, ce l'hanno fatto di notte o di lì, boh. Sì, hanno la denuncia, sì, no, orari non ne hanno. Io ho roba roba di valore non ne ho, la verità, non è che ho oro, ho soldi, però roba di valore, cioè, valgono televisori, computer, tutto questo che fa, quella, quindi c'è valore già ne ho, ripeto, oro e soldi no, poi già c'è valore. Ma se sotto se ci dici non abbai da ne oro, pensi che già ne chi ci rivene a me subito e veloce, pensi che già ne fuggino e se lo vedono ma pigliarsi la merce. No, cosa pensi chi pensano a oro e a dina? Chi si pensa ne entra a gran pacca che cosa è a fuggire, a vendersi la passare di nara, a comprì. Chi sa niente è fatta così. E vanno proprio che spiccio che hanno, le capito, a pigliare che ci facciappano. Poi sono stato pure a sentire, appena esci sono subito vendendo. E allora, esci va bene così fatto. Cosa? Io che un periodo, ma ammetto, mi curavano tutti quanti i germini di davanti alla Iana, e poi si rivendiano i rulati d'orsi. Tutto così. Poi mantengo di un poco, il mese passato mi è capitata un'occasione. Mi ha rivenduto in campagna una scatola e se lo via un despigliatore dopo un uomo. E mi ha detto, se mi dai 50 euro per un uomo, e se non mi siete, no, me lo faccio io. Dimmi che ho da fare, sono convincente a chi non mi piace a me, mi piace San Va. E si era pigiato e magari ha pure un vestito. Quello era appena rubato, magari anche lì nei dintorni, mi cosa cazzo. Una volta a momento ero caricato in un furgone, poi un papà un travaglio, gli via dare bocche, mi ha avvicinato con una borsa. E a poca distanza c'era un'officina lì, ti interessano questi drappa lì, e dici no, non mi interessa un cazzo, avviati. Dopo che se ne è andato nei CD, il meccanico dai che ma cazzo non vende i drappa lì, hai visto? E ne abbiamo curato le drappa lì, dai che c'è officina che vede lì, a me da sapere lì. Lo sai così, è così che lo stiamo, fate lì. Volenti e vendenti, e non si conta in un brigio, andano in terra a terra, ma se vissero l'ultimo giugno a fare la merce e poi avviati. Ehi, vedi di baffo che ha fatto in subito l'ultimo di pigliarsi la merce e baffarsi. A chi ha mai non lo so che ha fatto in questo. Ma, vai lui. Sto parlando, grazie, mi sta ascoltando, dai. Ehi, è così, grazie. Io l'ho muovato, e allora per merendero poi mi ha arrivato. Bene, signori, vi ringrazio delle quattro chiacchiere, io me ne passo in corretti perché devo prendere medicine. Ciao Luca, buona serata, saluti in casa. Ciao Grazia, io vengo alle patatine, saluta la signora, ci sentiamo domani se tutto coincide. Ciao Tore, buona serata ancora, buon QSO e buon tutto, ma chi si ascolta il Pinolino poi il QRT. Ciao ancora Tore, riprendi. Ciao Bacchi, fatti sentire ogni tanto, ci sentiamo le prossime, dai, ok, riprende, grazie. Ehi, yeah, ciao Bacchi, alla prossima, vabbè, ok, dai, che lancio, chiudo anche io, là, me lo vado su in abuso. Ciao a tutti, buona cena a tutti, a domani se coincide, rilancia Tore, vai Tore, ciao a tutti. Ciao, grazie, Sammy V, ci sentiamo domani. Ciao Luca. Ciao, grazie, ciao Tore, dai. Volevo dire una cosa, Graziano, comunque a parte i computer, i televisori, c'è altra roba, ciò sentono, già troppo un po' di soldini, dai. Beh, già lo credo, li ripurano e se lo vengono giù, ma... Babu, dai, ciao, ciao Tore.